Tienimi per mano che il mondo mi fa meno paura. Se tu resti accanto a me per sempre. Tu non sai come io potrei stare se tu te ne vai. Tu non sai quanto io vorrei restare ogni volta che tu vai. Tu se tu resti accanto a me per sempre.